Mix 24 di Giovanni Minoli. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Allora, buongiorno, bentornati su Mix 24. A chi serve l'Italia? Questo è il titolo dell'ultimo numero di Limes e dell'incontro che si terrà questa sera per presentare il volume organizzato dalla Società Culturale Dante Alighieri. Ecco, buongiorno Lucio Caraccio, direttore di Limes. Allora, buongiorno a voi. Allora, a chi serve l'Italia, se vi chiedete voi nel numero di edicolo, ma perché a chi serve, non a cosa serve? Perché bisogna legare le due cose ed è bene partire dai soggetti. L'Italia serve a tanti paesi, a tante potenze, ne cito solamente tre. Serve alla Germania perché qui si decide il futuro dell'euro, a causa delle dimensioni economiche e demografiche dell'Italia noi siamo decisivi. Serve a tutti i partner del Nord Europa e in particolare alla Germania e alla Francia perché noi siamo il paese da cui passano le migrazioni verso l'Europa e a quanto pare serve ancora agli Stati Uniti visto che hanno aumentato la presenza militare in Italia dopo la fine della guerra fredda. Ecco Caraccio, lei dice anche però che l'Italia è un paese strategico che rifiuta di esserlo, cioè abbiamo una importanza oggettiva a cui non corrisponde la coscienza nostra di questa importanza e quindi non riusciamo a far valere i nostri interessi, non ci crediamo abbastanza. Anzi pensiamo che il nostro interesse sia quello di aderire ad interessi altrui, magari scegliendo quello che ci pare più forte. Francia e Spagna purché se magna, insomma, più o meno, ecco, cioè l'Italia tra essere e non essere preferisce sempre essere stata, dice lei, pur di non scegliere. Perché? Beh, noi siamo in qualche modo vittime del nostro grande e glorioso passato, eredi di una grande civiltà e questo dovrebbe permetterci di vivere di rendita. Non è così, per far fruttare quel patrimonio accumulato nei secoli dobbiamo sapere che cosa noi vogliamo adesso e naturalmente batterci per ottenerlo. Ecco, senta Caracciolo, ma qualche esempio in cui è stato chiaro questo, me lo può fare? In cui è stato chiaro che noi non abbiamo fatto valere i nostri interessi. Non essere, sì, beh, ne posso citare un paio. Per esempio, noi abbiamo contribuito a destabilizzare il nostro estero vicino. Diciamo, per esempio, abbiamo bombardato la Jugoslavia e la Libia, con il risultato che abbiamo dei Balcani e soprattutto Nord Africa sempre più instabili e anche minacciosi per noi e per il resto dell'Europa. Ecco, ma quali sono le responsabilità che derivano all'Italia da questa nostra condizione peculiare, come dice lei? Innanzitutto quella di gestire la questione migratoria, perché da quando è stata chiusa la rotta dei Balcani, cioè quella che portava diciamo dalla Turchia alla Germania, e siccome la Spagna e il Marocco hanno chiuso quella occidentale, resta la rotta centrale via Libia e qui dobbiamo essere all'altezza della sfida, che non vuol dire semplicemente salvare delle vite in mezzo al mare, ma sapere poi che fare delle persone che arrivano qui. E infatti l'Europa ci accusa anche di non saper che fare delle persone che arrivano qua, cioè non solo scaricano tutto su questa rotta centrale, avendo chiuso, come dice lei giustamente, le altre due rotte, ma poi dicono non sappiamo neanche gestire questo flusso. È un po' tanto. È interessante che lei usi il termine Europa come se fosse esterno a noi. Fino a prova contraria noi siamo parte dell'Europa e siamo anzi uno dei paesi più grandi. È proprio questo il problema, noi dobbiamo aiutare l'Europa e quindi noi stessi a gestire questo problema, non possiamo farlo da soli, se gli altri non ci aiutano dobbiamo evidentemente prendere delle contromisure e qualche volta anche essere minacciosi. In qualche modo minacciosi. Ecco, lei indica 5 fattori che misurano l'impatto della fortuna dell'Italia sui protagonisti della politica mondiale, 2 li ha detti, no? Le due più importanti forse, il sistema della gestione dell'immigrazione e la gestione dell'euro. E gli altri 3 quali sono in ordine di importanza? Uno è quello che noi siamo comunque per gli americani una base logistica e di intelligence nel Mediterraneo piuttosto rilevante. Due, che siamo anche molto vicini a Mosca, cioè dei nemici degli americani, che ci dovrebbe permettere quantomeno di giocare un po' di sponda. E poi c'è un fattore poco noto in Italia, ma secondo me molto importante: l'Italia, per la sua posizione geografica, dovrebbe offrire il primo attracco ai traffici commerciali che la Cina vuole aprire con l'Europa. Quindi un'apertura anche della via della seta del futuro, diciamo, no? Sì, in qualche modo. In questi giorni è in corso a Pechino il vertice dei paesi delle vie della seta e l'Italia è presente al massimo livello, tra l'altro unico paese del G7 a essere a Pechino. E questo è interessante, no? Molto, molto, sì. Però dobbiamo deciderci a scegliere qual è il porto italiano che offriamo per questi traffici. Ecco, cioè attrezzarlo. Continuiamo a girare un po' in tondo. Anche perché i cinesi intanto si sono comprati il Pireo. Esattamente, ed è anche abbastanza notevole il fatto che abbiano scelto il Pireo, cioè non esattamente il porto di una grande potenza, come alternativa all'Italia. Senta, ma nello scontro tra Berlino e Washington, che lei adombra nel suo saggio, noi cosa dobbiamo sperare che capiti per contare di più noi? Noi dobbiamo fare leva su Washington per ammorbidire la posizione tedesca nell'Eurozona e dobbiamo sempre considerare che comunque il nostro futuro immediato è quello che ci lega alla Germania, alla Francia, agli altri partner europei. Quindi dobbiamo in qualche modo prendere e dare sui due fronti senza sposare nessuno. Ecco, la cancelliera Merkel ha una strategia di cooperazione, però anche una strategia di contenimento dell'Italia. Cioè, fino a che punto è vero l'uno e l'altro aspetto, cioè contenimento e cooperazione? La Germania vorrebbe che l'Italia restasse agganciata all'Europa, perché per la Germania l'Europa è una sorta di assicurazione sulla vita. Certo. Dall'altra parte la Germania ha interesse ad un'Europa che di fatto significa per noi deflazione e continuo rischio di essere cacciati dalla parte più virtuosa del continente. Fra l'altro voglio segnalare che c'è una specie di Italia tedesca, cioè immessa, infatti, nella catena del, esatto, valore tedesca, che arriva fino alla linea gotica, cioè il nord Italia, e tutta un'altra parte che invece è fuori. Cioè questo è il pezzo dell'Italia settentrionale che gravita già intorno alla Germania. Esattamente, questo è un dato di fatto, siamo integrati in un sistema, però lo siamo fino alla Toscana. Ma paradossalmente il sistema del mezzogiorno, che è arretrato e meno dipendente dalla Germania, ha più libertà strategica in futuro? Sì, ma rischia di rimanere appeso fra un'Europa centrata sulla Germania e un Nord Africa da cui a quanto pare riusciamo ad importare solo problemi. Quindi il suo disegno è di un'Italia che non riesce in ogni caso a diventare Italia. Ma l'Italia, se non diventa Italia, non diventa nemmeno Europa, cioè rischia di diventare una sorta di periferia in cui le altre potenze giocano le loro partite senza considerarci. Ma l'Italia ha un ruolo sempre meno forte, quindi ha un rischio di irrilevanza assoluto. È proprio il contrario di quello che io sostengo. L'Italia, per le ragioni che citavo prima, ha un ruolo importante. No, dovrebbe avere però, diciamo... Abbiamo un'importanza di fatto che però non utilizziamo. Perché pensiamo che non ci sia bisogno dell'Italia. Ecco. Se non ci crediamo noi, perché ci devono credere gli altri? Esattamente, ma con Macron in Francia l'asso franco-tedesco sarà più forte sulle spalle dell'Italia probabilmente, no? Contrariamente a quello che molti pensano quando hanno esultato all'idea dell'Europa a due velocità, certamente è così, cioè il rischio è che i francesi e i tedeschi, come al solito, facciano la loro Europa. Facciano l'Europa che gli piace a loro, anche se francamente fra loro ci sono dei problemi piuttosto seri. Però l'incontro di oggi fra Macron e la Merkel, con una Merkel trionfante, perché una Merkel che dopo tre mandati vince tutte le elezioni locali, è veramente un segnale fortissimo. Sì, la Merkel, a meno di suicidi, ha praticamente vinto le elezioni di settembre e comunque nel rapporto con la Francia Macron resta di gran lunga la dominante. Ma a Berlino si ragiona su un piano B con un nucleo di paesi più ristretto senza di noi per la moneta unica? Eh? Sì, beh, questa è una storia che va avanti da tempo, ma che rischia sempre di diventare... più vera. Sempre più vera per dei dati oggettivi e soggettivi, cioè in Germania c'è una diffusa paura che l'Italia sia ormai irrecuperabile. Dico paura perché la Germania non converrebbe. Non conviene per quello che ha detto lei, sì. Certo. Beh, l'Unione Europea però adesso ci accusa di aver fatto saltare il piano di ridistribuzione dei migranti, cioè li salviamo, ma poi ci accusa di non saper fare la seconda parte dell'operazione. Danno e beffa, insomma. Sì, ma i nostri cari vicini, tra cui includo la Germania, anche se non è immediatamente vicina, dovrebbero anche sapere che non possono pretendere dall'Italia che diventi una sorta di pentola a pressione con la gente che arriva da sud e le frontiere chiuse a nord. Ecco, ieri però il ministro dell'interno tedesco, effettivamente, incontrando quello italiano, ha detto: l'Europa sui migranti non può lasciare sola l'Italia, deve fare di più. Ma sempre parole? Per ora sì, sappiamo che con la Germania e con gli altri è in corso un negoziato per rivedere il famoso regolamento di Dublino, quello che ci inchioda ad accogliere, esatto, tutti i profughi che arrivano qui come porto, diciamo, di primo sbarco. Se non c'è una solidarietà europea, è chiaro che l'Italia non può gestire questo problema. Anche perché, come ha detto lei, la Germania con l'accordo con la Turchia ha scaricato sull'Italia il peso dell'accoglienza. Direttamente e indirettamente è così, ormai il 90% degli arrivi da sud vengono verso l'Italia e ci restano. Insomma, in fondo l'ultima rilevanza politica oggi, politico-diplomatica dell'Italia, sembra dipendere dal fatto che qui c'è la capitale della Chiesa Cattolica, insomma. Questo non è un fattore ininfluente, ricordiamo che l'Italia è stata fatta contro il Papa, forse siamo abbastanza grandi per renderci conto che il Papa serve anche all'Italia. Faccio un'ultima domanda, lei il G7 di Taormina pensa che potrebbe essere un'occasione per noi o saranno le solite chiacchiere? Saranno le solite chiacchiere. Grazie, grazie a Caracciolo, ricordo l'IMES in edicola proprio da qualche giorno, il titolo A chi serve l'Italia, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, mi sembra un'analisi lucida, spietata e lucida. Sì. Spietata perché è vera, certo, è come appunto. Sempre la verità fa male, è no? Come sempre, sì. Pietrangelo, la parte, solo una cosa, la parte secondo me in prospettiva è il ruolo di Macron, e voi vedrete appunto, che per noi saranno dolori, sì, penso dolori. Anch'io che saranno dolori. Pietrangelo, cioè, al Medio Oriente siamo spariti e avevamo un ruolo e in realtà abbiamo lasciato agli altri fare il nostro lavoro. E avevamo un ruolo, ma come ha ricordato prima Caracciolo, noi siamo sempre costretti a fare quello che serve agli altri, certo, quando abbiamo bombardato, sì, per esempio in Jugoslavia, e poi quando poi abbiamo bombardato Libia. In Libia, esatto, senza cavarne un ragno di vantaggio poi. E vorrei ricordare che anche il punto di vantaggio adesso dell'Italia di essere presente all'incontro per la Via della Seta non dipende tanto dall'Italia, no, ma dal fatto che la Cina ha bisogno di questo spazio, di questo Mediterraneo. Che ci fai sentire oggi? Ecco. Un passo indietro e di un già so di avere torto e non ho più le parole che muovano il sole. Allora? C'erano le valigie dei viaggi improvvisi oggi in metropolitana, in qualche vagone tutto il possibile, impossibile da dimenticare, però smarrito, come le tartarughe fermaporta, la mela di Biancaneve, però quella in legno avvelenata di malinconia, ha chiamato il lupo, ha voluto questo brano dei Negramaro per la luna con un messaggio, ma la facciamo una nuotata verso il cielo. Ah, che bello. Così. Oh. Mazza, il lunedì con tutta sta poesia. No, bello, bello, mette di buon umore. C'è il sole. Vai Mario con la tua bolla. Io sono stupito, voi state diventando troppo buoni. Vai, un po' di musica. Senti qua. Senti. Mamma mia, senti cosa sono questa adesso. Pezzo meraviglioso, una cover di Eli Bruna, di una canzone molto famosa di quando eravamo ragazzi, Easy Lady di Spagna. Senti che timbro di voce, Giovanni. It's such a hot sensation. Ce l'ha la voce. Mamma mia, ancora un po'. Get along, get along, get along. Oh, I can rule this nation. Va bene, era solo per dirti che Io questa roba della commissione d'inchiesa sulle banche, quante volte ne abbiamo parlato? Mezzo migliaio di volte. È una cosa fantastica, devo dire. Il giornalismo ci dà ancora grandi soddisfazioni. E la politica, naturalmente. Per fortuna il giornalismo dimentica sempre quello che scrive. Sì, e quindi è tutto nuovo. Vabbè, insomma, se Renzi la vuole, se tutti la vogliono, è chiaro che finalmente si farà. Si farà, e ovviamente farà la fine di tutte le altre commissioni d'inchiesta, cioè non servirà a niente. Beh, fine legislatura, è il momento di fare le commissioni d'inchiesta. Fine legislatura, commissioni d'inchiesta che poi vengono regolarmente prorogate alla prossima legislatura. Certo. Quindi quando riparte il Parlamento, riparte anche la commissione d'inchiesta, che si porta dietro segretari, consulenti, presidenti di commissione, indennità. Allora, solleverà molta polvere, sul tappeto sotto ce n'è già tanta. La storia delle commissioni d'inchiesta, me ne occupai, stiamo parlando di ormai 2 anni fa quasi, parte da Caporetto. Sì. Perché è ancora aperta, Caporetto. No, l'hanno chiusa senza risolvere niente, ovviamente. Segnalo che quando morì Licio Gelli poco tempo fa, i giornali titolarono: quali segreti si sarà portato nella tomba? Ma scusate, come i segreti? Non aveva svelato tutto la commissione d'inchiesta sulla P2 con tutto quel lavoro. Ricordo solo questa, così, ma potrei fare un lungo elenco. No. 2 legislature, 3 anni di lavoro, una relazione conclusiva di Tina Anselmi, 5 relazioni di minoranza, 24 volumi di allegati per un totale di 93 tomi, senza considerare i cosiddetti indispensabili indici. Okay. La verità? Nella tomba di Gelli, naturalmente, insieme a quella della tomba di Moro, perché anche lì è la nuova commissione Salamino. Primarie e tombola. Matteo Salvini stravince le primarie della Lega Nord, prende l'83,49 errotti percento. A Milano votano in 157, disertano le urne gli ospiti dei centri accoglienza immigrati, si immagina, e però fa tabula rasa, vince la partita e si ritrova a giocare da solo. Umberto Bossi, sbuffando, se ne va. Il vecchio leader infila la scheda nell'urna e non riesce a trattenersi, ed è tutto un va pensiero. Fottiti, sbuffa. Una nuova scissione aleggia tra i prati incendiati della politica. Dopo la scissione della ditta di Pierluigi Bersani dal Partito Democratico di Matteo Renzi, arriva quella della Lega di Umberto Bossi, pronto a dar battaglia. Dice: ci sono migliaia di fuoriusciti ed espulsi della Lega che hanno messo assieme un partito abbastanza grande e stanno attorno a Bernardelli. Domenica prossima il congresso della Lega, si vedrà come andrà a finire. E come andrà a finire? Capitano, lo posso dotturare? Perché Umberto Bossi fa di un solo Matteo 2 piccioni. Uno fa di cognome Salvini e uno fa di cognome Renzi. Dice: sono tutti e due uguali per loro. La soluzione, dice Bossi, per loro la soluzione è prima il mio C, con dei puntini. Sì. Siamo di mattino presto e non lo voglio interpretare. Zona protetta, dai. E in ogni caso dice: io non mollo. Ora, se Pierluigi Bersani a Massimo D'Alema, Bossi, che è forte dell'identità del Nord, a Roberto Bernardelli, che è un imprenditore, tra i cofondatori del partito pensionati, militante padano, indipendentista, e lui è quello... La sua storia ha accostato al tanco il mezzo agricolo che si voleva trasformare in un carro armato per omaggiare i Serenissimi di Piazza San Marco. Abbiamo tanti legami con il Veneto, assicura Bossi, e tra gli altri chi c'è? Eccola. Ah, signor giornalista, finalmente. Allora, questo signor qua, no, che ha altro da dire che sono patetica, nel senso che... E la signora Gina, in realtà è un avvocato che si presenta in abiti femminili, pure con i bigodini, le ciabatte, tra i canali veneti, non quelli della Laguna, bensì quelli televisivi. Ed è un nuovo protagonista in ascesa verso la meta delle mete. E qual è la meta delle mete? Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene. E l'ultimo chiuda la porta. E finì. Vieni la Lega. Anche Villaggio faceva a Mixer Gemma Pontini vestito da donna, ed era Nil De Jotti praticamente. Ah, ecco. Si faceva la sigla di coda. E... che dobbiamo fare? 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, la storia, eccola qua. Per la storia, dopo il caso della rimozione del capo dell'FBI da parte di Trump, vi racconteremo come è nata l'FBI e come per quasi 50 anni è stata comandata a bacchetta da Edgar Hoover. Alla peggior canaglia d'America dedicata la puntata dei gialli della storia. Pubblicità.